noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Bernardeschi, buona giocata di Dybala, in area di rigore, Dybala se la sposta, Dybala dribla, Dybala! 3-0 per la Juve. Il cross per Vessino, dietro di lui Perisic, un gol fantastico, 2-0 Inter. Bravissimo Marquez, ingegneristica questa vittoria di Marquez. Marquez c'è e vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Chiude davanti alle due Ducati di Danilo Petrucci e di Andrea Dovizioso. Scatenato Immobile, vola verso l'area di rigore avversario, seguito da Musacchi. Immobile in area, la mette in mezzo, arriva Luis Alberto, rete! Cala il poker a Lazio, Malmina non c'è più. Mertens scippa Pulgar che ancora pensava alla punizione, entra in area di rigore, calcia col sinistro, non poteva mancare Dries Mertens, 2-0 per il Napoli che chiude la partita col suo fenomeno Dries Mertens, 2-0. Grazie a Giorgio Rugo, il nostro autore Gianmarco Ferronato in regia, per questo riassunto sonoro dei temi della domenica, a cui aggiungiamo quello che è successo nella notte, cioè che Nadal ha vinto a New York il suo 16° slam, terza volta nella grande mela per lo spagnolo. E ho notizie di oggi, Valentino Rossi non correrà ad Aragon perché è stato sostituito da Van der Mark dalla Yamaha. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno, come va? Benissimo, anche perché ieri ho acciuffato al volo Giancarlo Marocchi. Grande, ottimo. Ciao Gianca. Ciao, ciao a tutti e due. Sei un uomo di parola. Ieri ti ho preso al volo, convocato subito, immediatamente, per i temi di questa giornata che, guardale là, come Dovizioso e Marquez a braccetto, Inter, Juventus e Napoli in testa alla classifica. Chi ti è piaciuto di più in queste tre partite, Giancarlo? Forse l'Inter, perché è la novità, diciamo così, ecco. Ormai Napoli e Juventus ci avevano abituato. L'Inter, tre partite sono poche, perché all'Inter darei i classici 2 mesi e mezzo. Sì. Quelli che poi hanno fregato Pioli, prima Mancini, eccetera. Perché questo gruppo di giocatori, che è forte, poi è stato anche implementato, fa così, per 2 mesi sembrano i più bravi, più disponibili, eccetera. Poi succede qualcosa e arrivano delle sconfitte. Ecco, credo che Spalletti si debba concentrare su questo, perché sul resto lui e i giocatori stanno facendo bene. Sì, sei d'accordo Pierluigi? Sono d'accordo, anche perché l'Inter comunque delle tre è quella che ha avuto la partita più difficile in casa della Roma, che ha vinto soffrendo anche, insomma, sicuramente, però comunque l'ha passata. Quindi sul piano, diciamo, della notizia, sicuramente l'Inter è la novità più interessante. Poi, insomma, secondo me Napoli e Juve stanno facendo delle cose molto, molto buone, molto regolari. Mi sembrano le tre vittorie mi sono sembrate abbastanza simili, nel senso che nessuna delle tre ha dovuto spingere il motore più di tanto. Sono talmente forti e consapevoli della propria forza che la distanza è troppa. No, in questo volevo chiedere a Marocchi una cosa sul Napoli, nel senso che ieri abbiamo fatto giustamente sottolineato la buona partita del Bologna. Mi sembra che il Napoli stia facendo un grande passo avanti da questo punto di vista, nel senso che stia cominciando a vincere delle partite da grande squadra, quindi senza il Napoli ha questa qualità di gioco straordinaria. Era una squadra che di solito faceva 90 minuti pazzeschi, ma che ogni tanto aveva qualche calo di rendimento. Mi sembra più matura, non so che ne pensa lui. Con l'Atalanta e col Bologna è andata così. Vorrei vederlo con una squadra di forte impatto fisico, perché al di là della bellezza, che è sempre preferibile, certo, al risultato con noi tre, è chiaro che è così. Però è vero, ecco, contro le squadre che sicuramente non lo faranno giocare bene il Napoli, perché cioè il Bologna, l'Atalanta, è successo e boh, ma Napoli non gioca bene contro le squadre fisiche. Ecco, allora una vittoria contro una squadra fisica di medio-alto valore, allora sì che potremmo definitivamente dire ecco il Napoli che ha fatto l'ultimo salto di qualità. Sì, quindi una vittoria brutta, sporca e cattiva con una squadra che ha la stazza, tu dici, Gianca. Sì. Invece sulla Juve abbiamo incensato dopo la vittoria di sabato pomeriggio Dybala, no? Fenomeno assoluto, però aspettiamolo al piano di sopra questo ragazzo, e il piano di sopra arriva domani con Pardo presente, farà la telecronaca, quindi vediamolo lì a Barcellona su quel palcoscenico, e allora poi diciamo, ripetiamo quello che abbiamo detto, sei d'accordo? Sì, e soprattutto magari anche in questo momento, perché lui lo ha già fatto col Barcellona la differenza con una squadra che stava bene in tutti anche gli altri 10. Adesso la Juve si sta avvicinando così con calma al campionato e quindi con il minimo sforzo sta ottenendo il massimo risultato. Quindi dovesse fare la differenza da solo domani sera, cioè dico da solo nel senso perché la Juve non è al top chiaramente dal punto di vista fisico, allora insomma allora spendiamo l'incenso per bene, anche se Pier continuano a fare le pulce ad Allegri e non giochi bene, e lui dice cos'è giocare bene? Che significa? Sta diventando, lo vedo, poi vabbè, i social network certe volte esasperano anche certi temi, sta diventando quasi una battaglia culturale, invece sì, bravo, in realtà esatto. Secondo me è tutto più sfumato, cioè che il Napoli giochi il più bel calcio d'Italia credo che non ci sia discussione, però non è che la Juve giochi sempre male, anzi secondo me la Juve non gioca quasi mai male dal appunto punto di vista, e il Napoli, l'abbiamo detto prima, sta imparando anche a vincere quando non gioca tanto bene, quindi poi alla fine le grandi squadre si assomigliano un po' tutte, la dipendenza dai grandi giocatori ce l'hanno, perché poi beh, ci mancherebbe, dai. Dipende dai Gardi e Perisic, la Juve dipende da Dybala, il Barcellona dipende da quelli che fanno gol, forse il Napoli è quella che ha meno questa dipendenza proprio perché ha una sua idea di gioco talmente forte, però se lì gioca Mertens o non gioca Mertens già fa una certa differenza, quindi è abbastanza secondo me un tema così da bar. La verità no, è che ci sono grandi squadre, non sei d'accordo Giancarlo? Oppure, dico io, è l'unico tema, perché i temi sarebbero due, cioè la classifica e l'estetica. L'estetica e la bellezza sono opinabili, la classifica no, quindi che la Juve sia la prima, cioè quello è inutile che ne siamo. Cioè, sei prima da sei anni, che vuoi dire? E allora parliamo di bellezza, di estetica, e lì ognuno dice quello che vuole. Bravo, bravissimo. Senti, ultima cosa, tema del giorno, il Milan. Quattro schiaffoni all'Olimpico, vai, giochi con questo modulo che non convince nessuno, al di là dei numerini, Bonucci in difficoltà e l'abbiamo visto anche molto nervoso, giocano i ragazzini Cutrone, Calabria, e hai una vagonata di soldi seduti in panchina. Dov'è l'errore, Giancarlo? Allora ne parliamo oggi e quindi c'è stata una sconfitta. È chiaro che banalmente tutti noi, comunque vabbè, io dico, questa è una squadra che la vedo bene costruita con la difesa 3 e con tutti quelli più bravi, che alla fine sono quelli anche più costosi, in campo titolare. Però il percorso, insomma, noi lo guardiamo, lo valutiamo, eccetera, ha una valenza minima. Il risultato finale, ovvero che il Milan deve essere sicuramente tra le prime 5 a lottare per qualcosa come valori sommati insieme di valori tecnici dei giocatori, quindi c'è stata una batosta, ma va bene, diciamo bravo a Inzaghi, però a fine campionato il Milan deve essere davanti a moltissime squadre, ecco, quello sia chiaro, altrimenti bisognerebbe fare una valutazione su Montella, credo. Chiaro, chiarissimo. Grazie Giancarlo, ci vediamo più o meno domenica. Ciao, un abbraccio. Ciao. No, parla corretto quello che dice Marocchi, perfetto. Non dimentichiamo però, io l'ho sottolineato molte volte, sembra un tema marginale, laterale, prendi giocatori bravi, giochi bene, però questa squadra alla fine è stata costruita ex novo. E quindi mettere insieme una squadra ex novo mica facile, eh? No, ma assolutamente. Però, non sottovalutiamo questo tema. No, non lo sottovalutiamo e ci vuole grande prudenza e grande pazienza, non ci sono dubbi da questo punto di vista. Però è vero pure che questo per Montella è un anno decisivo. E certo. È inutile girarci attorno, nel senso che Montella lo scorso anno ha fatto una buona stagione, riuscendo a traghettare la nave verso un posto in Europa League, giocando, cercando di giocare un calcio positivo, gli ho fatto tanti complimenti. Certo. Quest'anno 230 milioni di campagna acquisti e sono 230 milioni di campagna acquisti. Non è pensabile, non è, cioè, se arrivi all'11 settembre, al 10 settembre, comunque con dei titolari importanti che hai pagato tanto, che sono fuori condizione, vorrei capire anche perché. Ecco, devi capire perché, e quelli che giocano devono giocare bene, perché altrimenti il problema si pone. Quindi io, ovviamente nella vita ci vuole grande equilibrio, mancano 35 giornate alla fine del campionato, ecco. però non è che ieri non sia successo niente, eh. Ieri è successa una cosa secondo me molto importante e molto negativa per il Milan, adesso dovrà trovare delle risorse, delle risposte, secondo me anche dal punto di vista tattico, la difesa 3 credo che sia una chiave. Sì, che sia la soluzione obbligata. Senti, facciamo così, approfondiamo il tema Milan subito dopo il traffico con il nostro amico Ciccio Ordine. Chi non finirà la stagione invece è il povero De Boer, che colleziona esoneri. Questa volta notizia di oggi, ve la butto lì, col Crystal Palace. Via De Boer. 800 24 00 24, traffico, torniamo. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. A tavola. Che pizza. Roncadin. Che pizza. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Tutti convocati. E c'è il quarto gol addirittura, ragazzi, però... Cioè, ragazzi... Quarto gol di Luis Alberto. Incredibile. Assolutamente incredibile. Milan frastornatissimo, squadra che farà felice qualche difetto. Credo che era anche utopico pensare ad oggi, alla prima partita di settembre, essere già tutti collaudati e super funzionali. 3-0, umiliati e offesi. 3-0. Ognuno voleva risolvere qualcosa, e ecco, questa è la dimostrazione, che anche questa è una dimostrazione che dobbiamo ancora diventare squadra, e veramente ci sono pochi allenamenti sulle spalle per la rosa al completo, per tantissimi motivi, ma lo so che non c'è tempo in generale, ma questa sconfitta fa male, questa sconfitta ci riequilibra un po', e abbiamo le prossime partite per metterci in carreggiata. Io non ho niente di in personale contro né Mirabelli né Fassone, non credo nel loro progetto. Beh, l'ultimo che avete sentito, gli altri, insomma, il riassunto della domenica milanista, le voci di Montella, e questo era Mino Raiola ieri sera alla Domenica Sportiva. Non credo in questo progetto. Allora, andiamo con Ordine. Eccoci qua, buon pomeriggio. Con Ordine e anche con Ciccio Ordine. Allora, sì, buon pomeriggio. Vai da Pardo stasera, Tiki Taka, no? Sì, no? No, stasera no, stasera no. Hai posto in piedi, c'è tutto esaurito. È già tutto esaurito, eh. Allora parli con noi, Ciccio. Montella chiede tempo, non ce n'è tanto. Io voglio sapere, noi, io e Pierluigi vogliamo sapere che cosa ci fanno tutti quei milioni di miliardi in panchina. Tanto per cominciare. Sì, no, ma infatti lui dice non ha avuto molto tempo per provare. No, non è così. Allora, lui ha avuto dal giorno del raduno e con qualche giorno di ritardo, tanto è vero che poi sono partiti per la tournée cinese, l'80% della rosa. Quindi non racconti cose che non sono autentiche. Il problema vero è che lui è rimasto in mezzo al guado, e cioè nella partenza ha voluto utilizzare, perché temeva di rimanere intrappolato nelle ganasce dell'Europa League, il vecchio sistema di gioco, il 4-3-3, che era quello più conosciuto e quello che conoscevano meglio gli interpreti. Poi dopo non ha accelerato per fare il passaggio a quello, diciamo, che è destinato a essere, dal giorno in cui è arrivato Bonucci, il sistema di gioco futuro del Milan, cioè il 3-5-2, che tra l'altro comporterà anche sanguinose e delicatissime scelte, perché per esempio chi gioca trequartista tra Suso, Cialanoglu e Bonaventura, di tre uno gioca e altri due restano fuori. Questo è il, diciamo, la sintesi dal punto di vista tattico. Poi c'è un problema di natura fisica, sì, cioè questa squadra quello non, notato. Va, non va, e poi c'è un problema relativo al gioco che abbiamo visto ieri, come l'anno scorso, un gioco che produce poco dal punto di vista offensivo. L'anno scorso se la sono presa con Bacca, che è andato in Spagna subito, pronto via, pa, e l'ha piazzata. Adesso mo se la prendono col giovane Cutrone, ma da Cutrone, che tra l'altro fa bene, può andare bene per Cagliari, per Crotone, ma quando l'asticella si alza non può andare bene, non puoi pretendere molto di più, anche perché non ha avuto una palla giocabile. Allora io, anziché prendermela con Cutrone, io me la prendo con Suso e con Borini, e su Borini vorrei fare un interrogativo: scusate, ma a che serve Borini? Vabbè, insomma, Pier ci ha dato giù leggero. Il professor, no, ma è tutto sacrosanto, è sottoscrivo. È così. Cutrone, secondo me, è meno colpevole perché è un giocatore che aveva pochissimi rifornimenti, ha provato un paio di sponde. Poi certo, un attaccante con un'esperienza magari diversa e con una qualità diversa, giovanissimo, ovviamente, forse avrebbe fatto di più. Però ripeto, per me lui è il meno colpevole, è il meno colpevole in assoluto. Ieri ho visto proprio un ritmo molto blando, ho visto una difesa in una difficoltà enorme. Questo è un altro bel tema. Su questo, scusami Pierluigi e Carlo, su questo, ma io faccio una domanda che credo sia anche abbastanza banale: ma siamo proprio sicuri che Abate è più scarso di Calà e che Abate non debba giocare nemmeno quando non c'è Conti per infortunio? Io non sono così sicuro. Io neanche, ma il tema è un altro, ragazzi. Il tema è Bonucci, che ieri sera poi ha dato di matto con Immobile, che è sembrato fuori condizione, che è sembrato esposto ai 420, che è sembrato il giocatore che non è. È fuori condizione, non ha dato di matto con Immobile, lì ha tentato di fare un po', diciamo tra virgolette, il difensore civico, sì, nel trash talk, Milan, dai, sì, dicendo a Immobile non devi non ridere, fare il fenomeno. Non fare il fenomeno, esatto. Sì. No, insomma, quelle sono cose di campo. Allora, io devo dire la verità, invece, una cosa che ho apprezzato e l'ho detto anche in diretta è che il Milan abbia mandato Bonucci a parlare, che Bonucci non si sia tirato indietro. Secondo me questo è un tema positivo e fa parte della personalità. Poi c'è, se vuoi, anche un po' una ostentazione, no, dalla fascia di capitano in poi, della personalità di Bonucci, però ragazzo ce l'ha, quindi voglio dire, ce l'ha, e questo ruolo se l'è caricato sulle spalle, quello di essere quello che ci mette sempre la faccia. Certo. Ieri ha parlato nel post partita e essenzialmente ha parlato di una difesa e di una fase difensiva non all'altezza, sul piano soprattutto della mancanza di voglia, di grinta, sì, di concentrazione, sì, di gara. Ma anche di attenzione, grave, di attenzione, certo. E questo è grave, però. Allora, io propongo, lor signori, ordine pardo, di sentire il primo ascoltatore di oggi rispondere in coro. Andrea da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo intervenire sulla caso Montella, diciamo. Era per ricordare che comunque nel girone di ritorno l'anno scorso Montella ha fatto 24 punti, che è una media, mi sembra, da donna salvezza, diciamo. Donna tranquillità. Quindi le avvisaglie c'erano già l'anno scorso. Lasciamo perdere, c'è da tenere in considerazione l'infortunio di Bonaventura, l'infortunio di Abate. Comunque erano due giocatori fondamentali per il Milan dell'anno scorso. Però secondo me le avvisaglie che Montella magari non poteva essere l'uomo giusto, secondo me nel girone di ritorno c'erano tutte. È un po' presto per dare un giudizio definitivo. Montella l'anno scorso aveva la squadra che aveva, e poi continua a ripetere, mettere insieme praticamente 11 giocatori nuovi, una cosa che io non ricordo sinceramente nella nostra Serie A, anche se bravi, non è facilissimo. Ciccio, mi sbaglio? No, non è facile. Lui ha avuto anche qualche piccola complicazione dovuta a chi arrivava in ritardo dalla Confederation Cup, chi è arrivato senza allenarsi, Kalinic, perché faceva come dire il ribelle a Firenze. Però il nostro ascoltatore pone una questione: cioè il signor Montella, siccome lui tra l'altro sabato ha detto la dirigenza merita 10, benissimo, però il signor Montella si gioca tutto, sì, certo, si gioca tutto, l'ha detto anche Pardo prima, però insomma dare un giudizio definitivo mi sembra un po' prestino, ma Pier. Certo che è presto, ma questo è presto, l'importante è che ci dicano e ci dica Montella entro quanto tempo possiamo vedere il Milan che gioca da squadra. E poi vi ammollo un'altra considerazione. È passata un po' sotto silenzio qualche tempo fa una bella intervista pepata, proprio peperoncino calabrese, di Bertolacci, che dal ritiro del Genova ha detto: io l'anno scorso mi sono infortunato perché gli allenamenti che facevamo al Milan erano a bassa intensità rispetto a quelli che faccio adesso a Genova. Sì, poi forse è una scusa. Fai la tara a quelli che sono andati via, che hanno il dente avvelenato. Io dico questo. Probabilmente esagerato. Forse è una scusa, però vista la condizione fisica di ieri, io qualche interrogativo me lo pongo. Te lo poni, giustamente. Grazie Ciccio, un abbraccio. Ciao, saluti, ciao, un abbraccio. A presto, saluti. Piero, Giuseppe da Bergamo, poi Borsa. Vai. Ti va? Giuseppe, sì, buongiorno. Buongiorno di casa. Allora, io volevo intervenire ponendo questa domanda al signor Ordine e a lei. Ordine, Pardo, faccia pure con Pardo. Vada, prego. Va bene, allora, io ho visto la lista Champions della Juventus. Volevo capire, o qualcuno mi spieghi, la scelta di Allegri di escludere quello che è stato il capitano dell'ultima partita e ha giocato tutte le partite e inserire Di Sciglio, che non ha mai giocato. Domani sera chi gioca sulla fascia destra? Chi gioca, a Pardo, visto che vai a commentarla? Te lo dico stasera a Tiki-Taka, però guarda, a parte che non è la prima volta, no? È il secondo anno consecutivo che c'è questo tipo di scelta, e io penso che Allegri voglia gestire la rotazione in maniera abbastanza scientifica. Lo scorso anno lui fece giocare Lichtsteiner stesso in campionato la prima giornata con Dani Alves, che evidentemente riteneva più adatto per il percorso europeo. Comunque, se può consolarla, anch'io quando non ho visto Lichtsteiner ho pensato mi è fatto strano questo tipo di scelta, anche se ci sono giocatori, lo stesso Everes, che si possono tranquillamente adattare a quel tipo di ruolo. Comunque, guarda, io scommetto su una scommetto su un'eccellente stagione di De Sciglio. Non lo so perché certamente la partenza è complicata, poi quel Lazio Juve non lo ha ulteriormente aiutato. Io sono abbastanza convinto che De Sciglio abbia un problema prima di tutto di carattere psicologico, certo. E penso però anche che Allegri sia teoricamente la persona giusta per aiutarlo, perché comunque lo conosce, lo stima, l'ha voluto, l'ha difeso, quindi da qui a dirti che farà una grande stagione non lo so, francamente. Ma io mi sento di puntare qualcosa su una buona stagione di De Sciglio, anche perché è vero, crisi psicologica più che fisica, è stato tritato da San Siro quel ragazzo, evidentemente deve crescere come personalità, però se c'è un posto giusto dove possono aiutarti a crescere, è quello in cui è andato. 800240024, ci fermiamo per la borsa, poi dovrebbe essere con noi, lo annuncio, Giorgio De Luca aspetta, Leonardo Semplici aspetta, prima lo agganciamo poi lo annunciamo, va bene, a dopo. Bene, allora siamo tutti convocati. Convocati, ma proprio tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Allora ragazzi, uno dei temi di questa stagione, c'è chi tifa Juventus, chi Milan, chi Inter, chi Napoli, chi Roma, chi Lazio, chi Cagliari o Bologna, ma quasi tutti, Pierluigi Pardo, tifano SPAL. Vero? Vabbè, certo, la squadra più trasversale d'Italia. Sì, diciamo il Chievo 2.0, all'inizio della sua avventura il Chievo aveva, credo, questa simpatia, che sono bravissimi, però voglio dire... La differenza è che il Chievo non aveva la storia che ha la spalla e che mancava da tanti anni con la maglietta nel campionato di Serie A. Chi ce l'ha portata è Leonardo Semplici, che è in linea con noi. Buongiorno mister. Salve, buongiorno. Avrei un sacco di cose da chiedere, non abbiamo tanto tempo, ma vorrei trascinarla nella discussione sull'estetica che facevamo prima con Marocchi, sull'estetica, giocare bene, giocare male, come fa Allegri. Ieri la Spalla ha giocato molto bene a San Siro, è tornata con 0 punti, c'è stato un rigore concesso con la nuova tecnologia. Scelga lei. Ma quello che volete, sono a disposizione. No, cioè... Allora partiamo da ieri. Complimenti. Parto io. Come arriva l'Inter in campionato? Facciamo un giochino. Che sensazioni ci sono? Secondo me nei primi 3 posti. Per storia, per rosa e per la bravura del Renato. Su quel rigore concesso ieri io vado subito dritto al punto. Varo o non varo? Ma ci sono delle immagini un po' particolari, però insomma, a parte questo, credo l'unico dubbio che mi rimane è il fatto di che aver deciso dopo 5 minuti, esatto. E poi magari non aver recuperato il tempo adeguato, ecco. Sì, 4 minuti e 12 secondi per la precisione, Pardo. Così sì, non sono neanche tempi, non sono tempi televisivi, nemmeno tempi televisivi. Il problema non è quello, basta recuperare. Guarda, io sono tranquillo, sereno e ottimista sul VAR, nel senso che dico ci si è messo un po' troppo, però non puoi recuperare 2 minuti, cioè è proprio sì, è proprio è fare un errore proprio matematico, sì. Errore matematico, certo. No, ma infatti venga la VAR, perché sicuramente anche se Meagro non sia sempre a favore dei più forti, però indipendentemente da quello credo che ci sia bisogno del suo tempo per decidere, però è giusto recuperare il tempo perso, questo sia da migliorare. Beh, comunque mister, anche spezzare una partita per 5 minuti a me non sembra una grande idea, proprio per la fluidità del gioco, per quello che volete, insomma, per molte ragioni. 5 minuti è tanta roba, fermi tutti 5 minuti, sì, tra l'altro ho visto che Nicky dice che la colpa è delle immagini. Adesso voglio fare difesa della categoria, anche non è che faccio io le immagini. Io ieri ero qui a Cologno Monzese e c'era Bergonzi che lavorava le immagini, insomma. È chiaro che lì c'è una pressione diversa, perché la pressione del VAR c'è comunque, perché se un arbitro sbaglia con le immagini, come dicevamo un paio di settimane fa, è ancora peggio, è ancora più difficile da accettare l'errore dal punto di vista del tifoso. Quindi la pressione ce l'ha pure l'arbitro di VAR, però insomma ieri si poteva far meglio anche dal punto di vista dei tempi. Sì, sicuramente. Mister, giocare bene, giocare male. Allegri dice: cosa vuol dire giocare bene? Guardate la classifica. C'è il Napoli che gioca un calcio meraviglioso, che come diceva giustamente prima Pardo forse sta imparando a diventare grande squadra, vincendo anche partite brutte, sporche e cattive. Allora come la mettiamo questa discussione filosofica? Ma credo che ognuno abbia il suo bello, lo veda da sé, ecco, dipendentemente dai giudizi dei giornalisti. Ma brutta la Juventus secondo lei? Per la sua idea è brutta? Ma secondo me è una grande squadra, una squadra concreta, una squadra cinica, una squadra che se vuol vincere, questo si insegna, e giocando anche in questa maniera ha grandi risultati. Poi ci sarà la partita, può giocare meglio, un'altra peggio, però insomma ha grandi qualità e credo già fare giocare tutti quei giocatori insieme nello stesso momento con caratteristiche offensive credo sia già una cosa positiva. Poi sai, magari giocare bene o giocare male, sicuramente il Napoli lo vediamo tutti, gioca un calcio propositivo, un calcio bello che piace a tutti. La Juve magari ha un tipo di calcio diverso, però insomma bisogna avere rispetto per qualsiasi tipo di calcio. No, questo è chiaro. Pierluigi, come la vedi invece, non lo chiedo al mister, come la vedi tu la Spalla in campo? No, io la vedo bene, credo che anche ieri, soprattutto nel secondo tempo, si sia vista una squadra, ma nei 90 minuti si è vista una squadra che sa stare in campo, e appunto volevo chiedergli questo, perché noi ci siamo incontrati eroicamente quest'estate, fra l'altro insomma... Eroicamente? Sì, in spiaggia, con dei fisici scultorei, veramente due uomini splendidi, e il mister mi diceva sarà importante partire bene, speriamo nel calendario, mi sembrava che ci fosse un focus particolare sull'approccio, no? Sul rompere il ghiaccio. Intanto più 4 su Verona e Benevento. Sarà matematico, non opinione. Il timore, vedendo anche la partenza dell'anno scorso, dove eravamo tanti esordienti, dove avevamo partito le prime 5-6 giornate, temevo molto. Poi, vedendo anche il calendario, insomma, non è dei più semplici. E invece quest'anno siamo partiti col piede giusto, sicuramente l'esperienza dell'anno passato ci è servita, l'arrivo anche di qualche giocatore di esperienza in più ci ha permesso anche in campi tipo ieri o a Roma o alla Lazio, insomma, di avere quella personalità, quel coraggio ci permettesse di fare una buona gara. Credo ieri, insomma, si sia vista una buona spalla, una buona identità di gioco, poi può piacere o non piacere, però insomma attraverso quella noi vogliamo provare a raggiungere il nostro obiettivo. Bravissimo, chi vince lo scudetto? Domanda facile facile. Napoli. Il Napoli. Quest'anno spero sia l'anno di tardi. Attenzione, scuola toscana, Pardo. Sì, ma lei ha capito, semplice, tanta gavetta, una carriera finalmente risolta nel migliore dei modi. Perché voi toscani siete così bravi a allenare? Che cos'è? Perché voi toscani, cos'è la ribollita? Voi toscani siete così bravi a allenare? Io credo, bisognerebbe domandarlo magari all'allenatore che lo aspetta di me. Però per quanto mi riguarda, insomma, essendo fiorentino, è quello di non essere mai contento, è quello di non accontentarsi mai, è quello di andare oltre sempre a quello che fai e cercarsi di mettere sempre in discussione. Credo questo sia un po' racchiuso in tutti gli allenatori, queste caratteristiche, però da noi fiorentini toscani credo ci sia qualcosa in più, essendo anche permalosi, facendo fatica a essere criticati, cerchiamo sempre di andare oltre. Di andare oltre. Mister, un'ultima cosa, ma Ferrara come sta vivendo questa stagione? Tutti pazzi di gioia, grande, di spalle, di felicità. Grande entusiasmo, ieri insomma, c'era 3.000 persone al partito. C'è grande voglia di poter partecipare in maniera positiva a questo campionato. Dopo tanti anni abbiamo risvegliato un popolo, ma non solo a livello di tifo, ma a livello proprio di città. C'è un entusiasmo palpabile, chi viene a Ferrara capisce quello che abbiamo creato in questi 2 anni e mezzo, 3. Sicuro, l'unica cosa se mi consente è che raddoppiare mi pare il prezzo dei biglietti, non, magari anche no. Mi consente, io faccio il critico. Raddoppia pure il livello di bellezza delle partite. Mi mordo la lingua. No, tra l'altro, insomma, ieri devo dire che insomma mi sembra ennesimo grande esodo. Insomma, sì, meraviglioso, Pierluigi. Come ti ho detto, belli, la squadra più trasversale d'Italia. È la squadra più trasversale d'Italia. Cioè, tutti ti fanno spalle. Grazie, mister. Grazie a voi. Grazie a Leonardo Semplici, allenatore della Spalla. Andiamo di corsa da Riccardo, ascoltatore prima del traffico. Dica. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Vi seguo sempre quando possibile. Ecco, io avrei una domanda per voi e anche per gli ospiti riguardo al Milan. Io non voglio parlare né degli interpreti in campo, né dell'allenatore, né del modulo. Vorrei sapere solamente perché questa squadra cammina sempre per il campo. Sono anni che ci portiamo dietro questo problema della preparazione atletica. Cioè siamo a metà settembre e la squadra è già scoppiata. Cosa c'è che non va? Beh, mi sembra, io non credo sia scoppiata. Non si è mai gonfiata. Ormai non è arrivata la partita di ieri. Ma la partita di ieri è una partita molto, molto diversa da tutte le altre. Nel senso che è vero che era la prima vera grande partita della stagione, quindi si può anche pensare che forse ci si fosse troppo illusi contro avversari di basso livello. No, ma poi bisogna anche smetterla di sottovalutare la Lazio, se mi permetti. No, vabbè, questo è il mio. No, lo diciamo io e te, ma anche per me. Tra l'altro, stasera Tiki-Taka, che grazie all'assist, c'è Cristiano Lucarelli, ma c'è anche Simone Inzaghi, super ospite, che ci spiegherà come ha costruito questa impresa di ieri e che Lazio sta nascendo. Perché veramente nata l'anno scorso, questa Lazio. Esatto. E quindi no, io non credo ci sia un problema di condizione fisica di una squadra scoppiata, penso ci sia un problema di condizione fisica di una squadra che non è ancora lievitata e quindi certo. penso che le cose miglioreranno, però torniamo al discorso di prima di Franco Ordine e qui c'è un tema vero che riguarda l'allenatore, cioè l'allenatore ha la più grande occasione della sua carriera ma anche ovviamente il più grande rischio della sua carriera e vedremo come se la giocherà. Parlo critico con Montella. Sandro. No, sono critico. No, metti i puntini sulle i. Primo anno che uno va a condurre Sanremo o va a condurre, che ne so, la lotta degli Oscar. Deve fare bene. Può andare bene e può andare male. Tutto qua. Meglio se va bene. Sandro. Sì. Poi salutiamo Pierluigi. Dica. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo intervenire anch'io sul tema del Milan, mi sembra un po' il tema del giorno. E lo è. 51 anni e milanista da una vita. Uh-huh. Ieri ho rivisto un pochino, ho rivissuto i fantasmi delle ultime stagioni, vedendo una squadra completamente molle, uh-huh, a parte i primi minuti di gioco, però proprio, e non la cosa peggiore, non reattiva dopo che abbiamo preso il primo e il secondo gol, proprio hanno mollato del tutto. Sì, allora la prima domanda che mi viene spontanea, e credo sia un po' la domanda che ci facciamo tutti, dopo la campagna acquisti faraonica, vedere 80 milioni di attaccanti in panchina e di contro un Borini inesistente, mm, e un ragazzino che magari farà bene, ma al momento è quello che è, sì, non possiamo aspettarci da lui. Guardi Sandro, io torno alla premessa invece, che è molto interessante, perché Pierluigi, cioè il popolo milanista che ha paura, sbaglia una partita, tornano i fantasmi, ma è così, è così. Sì, però voglio dire, cioè, è chiaro che se tu lasci tutti quei migliori in panchina ti prendi un rischio, cioè io non è che sono... voglio essere colpevolista, io penso che sia tutto ancora assolutamente possibile e che è una sconfitta. Il Milan ha già da giovedì con l'Europa League la possibilità di riscattarsi e lo farà probabilmente, però voglio dire, è chiaro che quando arrivi comunque a 10 settembre, dopo, come diceva giustamente Franco Ordi, dopo aver comunque fatto la preparazione e tieni in panchina giocatori così importanti e ti prendi un rischio con giocatori, diciamo, di livello inferiore, poi se le cose vanno male, anzi se vanno malissimo come è successo ieri, è normale che arrivino le critiche, cioè è la legge delle cose, non mi sorprendono queste telefonate. No, mi, ma nemmeno a me, il contrario. No, ma certo, questo è chiaro, ma anche perché la gente del Milan, dopo questi ultimi anni di vacche magre o magrissime, ha fatalmente paura. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Ciao, buon tiki taka, torniamo dopo il traffico con le moto. I love this game. Tutti convocati. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Molto contento perché è stato un weekend un po' difficile e in acqua sempre importante. Ho detto dai, se Petrucci stacca più tardi di me facciamo secondi, anche era un bel posto. Ho provato di andare fino alla fine e alla fine 25 punti, molto importante dopo di quello che è successo a Silverstone. Stati molto bravi loro, Danilo molto bravo, Mark fino alla fine non ha mollato, si è preso dei rischi ma ha pagato per lui, ma in questo momento è vero che è ancora presto per il campionato, bisogna vivere gara per gara, ma quando non ti senti, sono riuscito a vincere 4 gare, quando ti senti di poterci provare ci devi provare, ma quando non ti senti benissimo, soprattutto in queste condizioni, secondo me è stata la decisione giusta. Beh ragazzi, professor Ungaro, tutti in piedi. Può anche non starci simpatico, ma tutti in piedi davanti a Marc Márquez ieri, a maggior ragione a Misano. Ciao Carlo, un saluto, ciao, a tutti. Ha fatto vedere cosa è capace, lui faceva la differenza e ha fatto quello che sa fare. A me sai cosa impressiona tra l'altro? Che lui, sappiamo bene come guida e ci regala lo spettacolo, ma quella guida la può fare sull'asciutto, bene, condizioni opposte, bagnato, quindi erano sulle uova, e anche lì ha fatto la differenza, ha preso tanti rischi e non si è accontentato del secondo posto, perché ha fatto questo ragionamento lucidissimo: quei 5 punti in più che potrei guadagnare andando davanti a Petrucci mi potrebbero valere oro poi all'ultima gara a Valencia, e così ha fatto. Quando io mi auguro per Dovizioso e per la Ducati, ne abbiamo bisogno tutti e se lo merita Andrea, però questo ragazzo, ragazzi, fa uno sport diverso, cioè ha veramente una marcia in più e non gli si può dire nulla se dovesse a fine campionato conquistare lui la vetta più alta. Assolutamente, è lui il grande favorito, Roberto, sì. Ma poi come ti dicevo ieri, la sensazione almeno televisiva era che tenesse davanti Petrucci quasi come scudo, io vado via all'ultimo giro. Certo, ne aveva di più, lo si vedeva, anche perché sarebbe stato più complicato passare davanti, perché doveva gestire più giri da leader e quindi imporre il ritmo, rischiare di deconcentrarsi, e invece ha attuato la strategia perfetta, cioè passando l'ultimo giro poi doveva fare solo un giro davanti, sì, cioè esposto, certo, a quel rischio. Certo, vai controvento, esatto, prendi il vento, sei esposto soltanto per metà percorso. Roby, anche perché vai Carlo. No, se guardiamo le onde dove sono, guardiamo Pedrosa cosa ha fatto. Esatto, cade, però quindi è lui che fa la differenza. Certo, due minuti per due domande. Dammi un voto alla gara di Dovizioso. Dovizioso è il Dovizioso che abbiamo sempre conosciuto, ragioniere, lucido, molto freddo, e ha preferito non rischiare. Magari non si trova benissimo con la moto, però in quelle condizioni sul bagnato, alla fine puoi comunque, se vuoi rischiare, fare un po', almeno cercare di fare la differenza. Si è accontentato, però ripeto, a me è il Dovizioso che ha vinto le gare di quest'anno che stupisce, che è cambiato. Questo è il Dovizioso che mi aspettavo, è il suo primo podio, tra l'altro. Qui è una pista lui indigesta, non è mai andato forte, mentre invece quello che mi fa ragionare è che Petrucci con quella Ducati e Pirro quinto, attenzione, ready, quindi la Ducati adesso è forse meglio della Honda, cioè è la base migliore, perché va bene dappertutto, è Marquez che fa la differenza su quella Honda, quindi il campionato è apertissimo, se lo giocheranno, e se la pari merito è un regalo per noi appassionati. Come no. Però, Roby, ti lascio 50 secondi per Tony Cairoli. Di nuovo, Antonio, ragazzi. Tony Cairoli, andiamo nella terra, nella polvere del motocross, di nuovo campione del mondo. Fenomeno. Purtroppo se ne parla poco, ma quest'anno ha conquistato di nuovo. Tanti dicevano che era verso la china, e invece ha tirato fuori i denti, e dopo due anni un po' sfortunati anche per gli infortuni ha mostrato tutta la sua potenza, e vederlo danzare nella sabbia, quel terreno a lui ostile, perché noi che nasciamo nel duro, la sabbia invece degli olandesi, dei nordici, è il loro habitat, lui è andato a vivere lì, si è trasferito, ha digerito, anzi è diventato una punta di diamante su quel terreno, e vederlo guidare, ragazzi, perché lui non fa fatica, lui fluttua, è una galleggia in quelle dune, e quindi anche uno come Earlys, che è di casa su quella sabbia, non ci fa niente da fare. Tony, è onore al re, perché onore al re, dice Roberto Unger, più alto del mondo. Sì, è tantissima roba. Grazie Roby, alla a prossima, te, un saluto. Ciao a tutti. Roberto, ciao. Ungaro, allora vi annuncio, stiamo cercando Danilo Petrucci, magari domani, magari venerdì, vedremo, ce l'hanno promesso. Intanto saluto tutti, Giorgio De Luca nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo domani alle 2. E casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!